sabato qui insieme a voi. Teatro elettronico. M2O. Antiope, molto rara da noi, non le sembra bella? Sì, bellissima. Quello che mi piace. Thank you. Se solo ci fosse un modo di smettere di soffrire a comando. Qualcosa del tipo, in caso di emergenza, rompere il vetro, prendere il martello e darselo in testa, o un numero verde da chiamare per disdire il servizio, oppure una parola magica che ti faccia tornare al punto di non coinvolgimento, per lasciarlo prima che ti lasci lui. Basterebbe anche una sirena che suona e lampeggia quando la nave sta affondando, così da correre in tempo alla scialuppa per salvarti la pelle e le palle. E invece niente, quando finisce una storia sul campo non restano che macerie, fumo, ambulanze e un ferito grave, quello che è stato colpito dalla granata. L'altro, quello che l'ha lanciata, è già scappato lontano. Alzi la mano chi non è stato lasciato almeno una volta. Che non sia stato male come un cane. Non è che i cani stanno poi proprio così male, o almeno non tutti. Comunque. D'Agostino. musica che unisce. Quando succede, cioè che sei lasciato, no? Che sei stato lasciato, abbandonato. Quando succede, c'è sempre uno stuolo di persone disposte a darti consigli e a dirti: te l'avevo detto, passerà. Ma la verità è che lì ci sei tu e non loro. Anche se vorresti tanto cedere il posto. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get down some. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get your ass to help stand. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get down some. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get your ass to help stand. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get down some. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get your ass to help stand. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get down some. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls. L'unica cosa positiva in tutto questo è proprio quella cosa che qualcuno sicuramente ti avrà detto: passerà. Chi? Passerà. Sì, anche quando ti sembra impossibile, perché sei sicura che non lo dimenticherai mai, che non incontrerai mai più nessuno così speciale e che non puoi vivere senza di lui. Ci sarà una mattina in cui ti sveglierai e ti accorgerai che il tuo primo pensiero, che il tuo primo pensiero, oh, non è più l'omicidio-suicidio, e che c'è ancora un mondo là fuori e che forse è il caso di farsi la ceretta. The Shank the Pearls. Quello che mi piace. Don't punch the number from the back. Le 10 cose da non fare, o meglio, da non fare troppo perlomeno. C'è questo che sto leggendo, insomma, delle parti di uno scritto di una donna che si rivolge a delle donne, no? E quindi io stavo estrapolando un po' di parti. Allora, le 10 robe da non fare troppo sono, per esempio, non bere. Ma almeno non bere troppo, cioè fatti proprio sto goccetto, ma non esagerare. Non fumare, cazzo, non fumare. Non mangiare troppo, cioè mangia perché... Oh, però non troppo, non troppo. Non ti impasticare, no, che magari dici mi prendo un po' di quei cose che mi calmano, quelli che mi fanno dimenticare, quelli che... Mi intontiscono un po' così io non ci capisco più una mazza e non penso a quella mazza. Comunque. M2O. D'Agostino. Quello che mi piace. We'll be right back. Quando si accende l'amore è una pazzia temporanea. L'amore scoppia come un terremoto e in seguito si placa. E quando si è placato bisogna prendere una decisione. Bisogna riuscire a capire se le nostre radici sono così inestricabilmente intrecciate che è inconcepibile il solo pensiero di separarle. Perché questo è, l'amore è questo. L'amore non è turbamento, non è eccitazione, non è il desiderio di accoppiarsi a un istante della giornata, non è restare sveglia la notte immaginando che lui sia lì a baciare ogni parte del tuo corpo. Thank you. birthday. Rock your birthday. I said rock your birthday. Rock your birthday. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Yo, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Rock your birthday. Rock your birthday. Rock your birthday. Rock your birthday. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Yo, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Rock your birthday. Rock your birthday. Rock your birthday. Rock your birthday. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Yo, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. La gioia di una giornata. Magari qualcuno che camminando mi sorride lungo la strada. Felicità è quando penso che sto tornando a casa da te. Quello che mi piace. Thank you.

Luigi D'Agostino. Quello che mi piace. Ci sono strumenti in cui il suono viene prodotto dalla vibrazione di corde. Sia sollecitate con un arco, sia pizzicate o percosse. Percosse. In questa parte corse. Percosse. Con il suono percosse. Percosse. In questa parte corse. Percosse. Con il suono percosse. Percosse. In questa parte corse. Percosse. Con il suono in questa parte corse, percosse, con il suono percosse, percosse, in questa parte corse, percosse, il suono viene prodotto dalla vibrazione, vibrazione, vibrazione, dalla vibrazione. E pace. Questo è quello che mi piace. destino. Musica che unisce. Fermiamo un attimo. Se noi pensiamo che la maggior parte delle stelle della Via Lattea ha il doppio degli anni del nostro Sole, allora è sicuramente possibile ipotizzare l'esistenza di civiltà altamente avanzate, civiltà che hanno sviluppato viaggi interstellari. Ecco perché ritengo che sia più che probabile, non solo possibile, ma fortemente probabile, che visitatori extraterrestri stiano esplorando altri sistemi solari e che dovremmo realmente aspettarci la presenza di extraterrestri che stanno osservando la civiltà umana. Ecco perché ritengo che sia più che probabile. danza. La danza. Música. Danza. Camina con la danza. Música. Música. Camina con la danza. Tajan con la danza. Música, la danza. Tra le 10 cose da non fare troppo, non svuotare la carta di credito. Cioè, vabbè che lo shopping, come dire, ti fa sentire un po' meglio, però insomma, fai due calcoli prima. Quello che mi piace. Non rifarti tutta, cioè non ti andare a operare perché magari ti senti anche più brutta perché lui ti ha lasciato e ti fai due tette da 11 kg l'una. Non pedinarlo, no dai, non pedinarlo, è tristissimo. E poi aspetta, quanto siamo arrivati? Alla 9. Non picchiarlo, non gli fare male. 10. Non farti il suo miglior amico, cioè minchia, per dispetto no dai. Musica allo stato puro. Ricordi, traccio del passato, l'amore che... quello che mi piace. M2O. Musica allo stato puro. Premetto un concetto di musica e rispetto, non tanto verbale, bisogna lavorare. Regali, fortuna, schedine e lotteria. Moneta che tradisce, ti illude e poi va via. Se è vero che il soldo non dà felicità, lasciate sta tristezza e portatemela qua. Certo che il soldo da solo non può fare, ma dillo a chi non mangia e non sa dove abitare. Ma io so cos'è il valore e te lo posso raccontare, ma intanto non fermarti, bisogna lavorare. D'Agostino, quello che mi piace. Invece, tra le le strategie. Stavo dicendo tra le 30 strategie, ma mi stavo incartando. Insomma, ci sono 30 strategie che possono aiutarti invece a superare la fase acuta del dolore, no? Quando lui ti abbandona. Poi voglio dire, adesso questa scrittrice qua si rivolge alle donne, ma idem. E per gli uomini, no? È la stessa cosa. 30 strategie, vabbè, mangia sano ovviamente, ma non è che devi aspettare di essere lasciata per mangiare sano. Però, poi, niente sms, email, skip, quello lì, quello del telefono, no? Che non si paga, dai, a gratis, e o Facebook. Vabbè, qui spiega il perché. Non ci voglio, perché è troppo lungo, questo non ci voglio leggere adesso. Comunque dai, si sa, no? Cioè quando. Dai. Pensa com'è andata e riconosci i tuoi errori. Oh, questa è una roba seria. Lui non ti appartiene. Cioè c'è un attimo di consapevolezza. Non tutto il male viene per nuocere, va bene, se iniziano le puttanate. Fai una lista di priorità, ma dai! Non ti umiliare. Questo ovvio, ci mancherebbe pure. 29, impara la lezione. Oh. 30, non farti coinvolgere. Ma porca troia, ma sei qui a combattere il lutto, è ovvio che coinvolta, no? Ma guarda che forte questa. 31, ma non erano 30 le strategie. Vabbè, comunque. 31, sparisci per un po'. 'Se ha creato l'uomo. Ma l'uomo, l'uomo è il figlio di Dio. Ha creato Dio solo per inventare se stesso. L'uomo ha scritto la Bibbia per paura di essere dimenticato, infischiandosene di Dio. Noi non amiamo e non preghiamo Dio, ma lo supplichiamo. Lo supplichiamo perché ci aiuti a tirare avanti. Cosa ci importa di Dio per com'è? Ci preoccupiamo solo di noi stessi. Non è solo sapere se Dio esiste, ma se noi esistiamo. Mm-hmm. io la incontrai. Mi spiace, ha fatto pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché, perché, perché, perché? Mi amava, mi odiava, era contro di me. Se non ero stato il suo ragazzo, era colpa di lei. E per farmi incensire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Dovevi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei, sapendo che lei moriva per me. Con i tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Se non ero stato il suo ragazzo, era colpa di lei. E per farmi incensire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettando sì da me. Dal letto io mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. I need to hold you. I wanna. Gigi D'Agostino. Tino. D'Agostino. Tino. La frequenza codesta è la musica pesta. We'll be right back. Ciao e grazie.